a casa ce n'ho a 7 abiti di 8. Allora mettiti un filtro. Se ti metti un filtro, io per dire, c'ho il filtro di qua, no? Si caccia il filtro, non entra più. Io qua adesso sono col 48, ma penso che questo filtro non ne abbia. ANL. NP, guarda, ANL, c'ho un filtro, schiaccio quello lì e non sento più nulla, devo toccare, devo aspettare, ne risulta, ne nulla. Sento silenzioso, silenzioso. Io adesso sono con ANL off. Non è ancora il filtro quello, no? Come schiaccio il filtro non sento più per fa. Capito, non elimina quel disturbo, perché non è la trasmissione di una radio, di un'apparecchiatura, capito, CB, è solo delle spurie che stanno andando qualche macchinario che fa radiografie, qualche maledizione del genere, sì. E cavolo, ma a quest'ora radiografia mi vale un po' il grano, Sì, già ci sono gli ortopedici che lavorano a quest'ora gli ambulatori. Magari proprio a mezz'ora riesce a ripilare e farli un pace di radiografia extra. Non radiografia, non ecografia. Perché quello che l'ha sentita gli ha fatto sentire io la registrazione. Gli ha detto che dovrebbe essere un'apparecchiatura medicale. Ma io qui in 10 anni che ci abito, Pierpa, ti dico la verità, non ho mai visto nessun coso, nessun laboratorio, nessun coso. No, non lo so, bisogna vedere, devo prendere, ti ripeto, il coraggio a quattro mani e provare a farmi un giro per vedere dov'è. Ma non credo che qui nel mio palazzo, nella via, non credo che sia, perché e qui non c'è niente, non abbiamo manco garage qui, figurati. Abiti accanto a mio zio, lo conosce mio zio Giacomo. E capa, quindi qui nella via dove sono io no, assolutamente. E le vie qui intorno, via Giotto, niente, no, non ambulatori qui vicino non ce n'è. L'unica cosa che c'è è il bar che c'è qui nella piazzetta, dove c'è la piazzetta, dai, dove c'è Maltagliati, dai. E l'altro è qui dietro, via, la via dove c'è l'Avis, come si chiama qui, dove c'è la chiesa del Sacro Cuore. Fiacca, è Mario Lomez, là, il bar di Mario Lomez. O sarà un rumore della bisiglia, di Rubino. No, davvero mi, immagini. Ma l'uomo ruba oltre al suo. E che cosa, se il forno di Antonello sta andando, glielo posso abbottarlo stanotte. Ma poi sai qual è la cosa più bella? Che arriva a quell'ora e poi proprio sparisce di colpo. Attenzione, è sparito di colpo il rumore. Sei muto, cioè, aspetto il forno. Che fa? Sì, ho sentito. Non c'è più, come per magia, l'ho nominato ed è sparito. Che ore sono se avete un orologio vicino? Le 21:04, sempre la quasi alla stessa ora. No, quella è qualche macchina di quelli. L'elettromedicale avete che la calcarà un'ora e fa così, capito? Io adesso QRM a 2 e la radio è pulitissima. Finalmente si può modulare come si deve. Niente, è sparito. E tu lo senti ancora in sottofondo? Sapete? No, sono andato, lo sentivo solo su appena sul 14. E l'impressione sul 13, ma non si sente più nulla. Cappa, confermo anch'io, sparito come per magia. La fa cappa. Vedi così. Come sta girando questo ecco, Giuseppe? Alla grande, qui nella mia postazione alla grande, sapete, va forte veramente, sia come radio, sia come tutto, segnale qui è a fondo scala, e come sempre. Invece tu mi fai un giro e poi ritorna a capo. riposato in macchina, arrivi in un che casa non c'era più il rumore, se te lo faccio io. No, bisogna partire appena che inizia, capito? Ehi, tu figurati che stasera eravamo sul 5 ed era, guarda, pulitissimo come segnale. Da poi ha cominciato piano piano, dal 14 lì. Prima era sul 13 e sul 14 e sul 5 non lo sentivo per niente. Poi ha cominciato piano piano e sembra che si approfitti un po' di tutti i canali questa storia qui. Pappa, buonasera a tutti, Gianni Doppio Rubio. Sì. Monero. Oh, che sei entrato Monero, mandalo via. Beh, Monero, mamma mia, Saverio, pensaci tu. Fai via con Monero. Buonasera Gianni, ben riascoltato. Ciao Saverio, ciao Giuseppe, ciao Pierpotti, gli altri amici, dai. Capo, mi stavo ascoltando perché era al PC e quella pilandra di Marco mi ha premuto la portante. Fatto bene. Ci si capisce che tu non sei orecchio di porco. Bravo Marcolino. Ciao Gianni, ben sentito, ben trovato e cordialità, Capo. Ciao Giuseppe, 7351 anche a te, dai. Capo, sempre con questo rumore, sempre, lo stavo ascoltando. Oh guarda, te rimando a rubarlo che su cosa, Saverio già l'ha sentito, ma è una cosa che ti prende il cuore. Oh, ma l'ho sentito anch'io il giorno che era Porto Torres che stavo salendo. L'ho sentito perfettamente che tu l'hai mandato per farlo ascoltare. E l'ho sentito cambianotta, chissà cosa cacchio è. Stavo pensando anche che Giuseppe a quei citofoni che usano per i bambini, ce ne presi? E quel così che mettono nella culla lì. Li lasciano accesi per vedere se il bambino si addormenta. Una specie di spia, dai. Non so come sono fatti Gianni, però arrivati a questo punto tutto può essere. Che quelli sul 14 entrano, sul 14 entrava, perché io me lo ricordo, quando ci avevamo quello di Manuela io entravo con l'apparato. Addirittura mi hanno detto che sul 14 dice questi walkie-talkie, potrebbe essere anche qualcosa di walkie-talkie di ragazzini. No, ma avresti sentito di non quel rumore lì sicuro. Se mettono la portata c'è un ciccarino, quelli lì e se parlano li senti. Quel rumoraccio lì è difficile, no? Non penso che sia una questione di walkie-talkie. È vero, comunque c'ha ragione Gianni, ho sbagliato poco fa perché se ho molti tocchi e c'è vicino e senti proprio la voce del bambino parlando, capito? No, deve essere qualche macchinario o qualcosa del genere. Io ho pensato anche a qualche apparecchiatura che trasmette dati, perché non lo so. Come se uscisse fuori tipo un elettrocardiogramma o qualcosa del genere, giga, però poi cambia. Infatti, eppure guarda, domani come rientro da fare il giro, se ne sono molto stanco, un giro me lo voglio fare, per vedere, ma giusto per vedere, anche perché, attenzione, è riuscito a sentirlo anche Falchetto stasera e sul 14. Tu lo capisci meglio. Perché Falchetto a te di segnale ti sente forte, probabilmente è quello. Pierpaolo, Paola. Caro Giuseppe, altrimenti non ci rimane che l'altra opzione. Mi tempo l'apparecchiatura che ti ho detto stasera, eh. E cavolo, ogni sera Pierpa, ignora buona. Questo potrebbe essere una signora molto allegra. Ma che lo dicessi a me e lasciasse perdere con l'apparecchiatura lì? tubo dell'acqua che ho sul tetto, un colpo in testa e si fa subito, cioè si, la soluzione si trova subito. Non ti gusta l'idea? Proprio per niente, non mi gusta nada. Attenzione, avanti il triplo bit. Buonasera, Paike, buonasera e ben sentito. Ti ho nominato proprio 20 secondi fa. Scusa, io su 5. Cappa, e io ti aspettavo su 10. Cappa, Roccio, va bene così. Sta bene meno, non trova tutta la ruota. Ma che, ci sta il dottor Rum, Saverio e Vela. Avanti chi vuole per il palchetto. Dai, riprendo io, dai. Ciao Falchetto, ben sentito. Mi sembra un po' moglie stasera, su con la vita. Avanti, Savizio. Dica, sono tu di Falchetto che ho riascoltato questa sera. Cappa di Roggio, permettimi tutti super salutati. Va bene, vera. E allora che ti parlava? Di quello del Gigi Olimpia, papà? Io ti sento saturo, anch'io. Come saturo? Che c'è ancora la tua MRI? No, addirittura. Era per l'asilo, era. Ma io sono l'asilo perché sono tutta la settimana a casa con influenza. L'asilo, l'asilo. Vedi un po' adesso, vedi un po' adesso, se mi ascolti, molto in chiasso. Metti un bicchiere di vino, magari ti ascolto meglio. Ma se non zitto perché l'ho appisolato un po', dai. La mesa adesso. Ma che? Dimmi, Giuseppe. Stavo dicendo agli amici che sono qui in frequenza, e quello che hai ascoltato anche tu stasera sul 14. Sì, positivo, confermo, l'ho sentito anch'io. Ma sì, non l'ho sentito. Boh, mi sa che anche io. Non saprei cosa dirti, non saprei già cosa dirti. Ma la lancia del Falchetto deve essere un cavallo all'ippodromo a batteria, telecomandato. Non creo meno, no. Non creo meno, no. Bravo, arriva lui, già mi hai capito. Che ci vuole lei la farà addormentare. Ma no, ogni tanto entriamo, chiama, e questo com'è, quell'altro com'è, la televisione, quello e quell'altro, e via. E poi già fa la bambina brava. Invece Marco, se non si curica vicino a me, non dormo. Capo, ma dipende sempre da come li programmi, dai. Non c'è problema. Noi abbiamo cercato di programmarla per farla svegliare anche un pochino più tardi la mattina, no? Ma in genere 6:30, 7:15 è meglio di una sveglia. Invece Marco è il contrario. Manco la bomba riscende. Bene, lasciamoli fare, che tempo loro questo, lasciamoli fare, e grazie a Dio, guarda, quando sono belli ardenti così, da preoccuparsi è quando rimangono oggi. Io grido, cava, per carità, meglio niente, andave, riprendi Savirio. Io mi stavo pranzo strimpellato mentre vi sto ascoltando con le cuffie. Stavo facendo una bellissima canzone ciascialese. Faccela sentire anche a noi. Mamma e di dolori, chi mi sei denti, tu vedi chi non cori, me mangi. niente, e più niente so cantenti. A volte so solo delle gambe. Ai che triscia, è triste, una allegra. Ma a casa c'è un sicuro di tappini, no, no. Più lei io di no, là, è così. Quando c'è bel tempo ci organizziamo anche campagna, o di zenino e via. Se c'è bel tempo non c'è bisogno di organizzare campagna, anche all'aperto si può fare. E un dì? All'aperto. Ah, a Patavola. Adesso io di posti a voi. Posti mancano, San Leonardo, cosa ti posso dire? C'è anche un posto vicino a Ploaghe che si chiama, come si chiama? Io da forse bisogno di sedere per sedersi, tutto qua, il posto per arrostire, tutto qua, c'è. E a Burnari. Tanta giusta. Anche a Burnari c'è. Attendi anche la voce. Correnti continua 4 Dai, ci sta voi. E voi, fai parlare tutte le voci, aiuto, chiamate le voci al Valentino, che si fanno una seminata a parte anche loro, aiuto. Pizzata, si fa. Allora, io tutti quanti, fate parlare loro, adesso che si organizzano, aiuto. Cosa la rottura di palle, rabbo? Il tempo va vela, dica pure a me. Io qua bisogna che mi trasferisca la stazione giù nei passi dei magazzini, perché qua... Cappa di positivo, Pierpaolo, facciamo il trasloco. Sì, trasloco, guarda, compro 30 litri di cavo, passo il cavo, ci scendo giù in magazzino e faccio la stazione lì, K di positivo. A proposito di stazione, Pierpaolo, quella gigio là quanto assorbe dagli alimentatori? Quasi 7 ampere. Quasi 7, così è. Ma devi andare su AMFM o su SBB? No, su AMFM. Gava. Eppure guarda, se lo trovo un alimentatore di seconda mano me lo prendo. Allora, se c'hai problemi per il momento, ti ho detto l'altra volta, ti presto il mio, poi quando ti puoi mettere a posto, te lo prendi, non c'è problema, te l'ho detto, quando lo vuoi, te lo quello che avevi l'altra volta, poi quando puoi, con cavo e tutto quanto, ti sistemi. Perché io penso di essere sottoalimentato e ti faccio sentire una cosa. E capa. Com'è adesso? E com'è? Fa un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euro per il portato. Beh, non va bene. Capa, però senti adesso. Però senti. Tutto un pochino adesso, io penso di essere sottoalimentato così. Sì, c'è qualcosa. No, più che sottoalimentato si satura. Però non c'hai né picchi negativi né nulla. Ma no, già è sottoalimentato. Si accende la spia rossa? Sì, la spia rossa si accende. Però il fatto che adesso il baracchino lo sto alimentando con un altro alimentatore piccolino va bene. Però è lui che non mi sta piacendo. Non ce la fa l'alimentazione, dai, non ce la fa allora. E perché deve avere qualcosina in più per lo spunto, capito? E non gli dà lo spunto buono. Cappa, perché adesso lui su AMFM e su la lucetta è accesa, però poi quando vado a modinare qui nell'alimentatore qui si accende la lucetta gialla. Infatti sto andando in protezione. Ok, io faccio così, guarda, come per magia, 1, 2, 3, ti vedo come prima. E te l'ho detto, prendi quello e poi quando lo trovi me lo ridai. Gianni, un alimentatore riusciamo a trovarlo, a comprarlo, a quanto sto poi, molto da più, quello là lo restituisco, mi auguro, il prima possibile al buon Pierpaolo. Un alimentatore, da quanto lo fui? Oh, io vi saluto, dai, che ho il telefono adesso sarà da mangiare. Ci sentiamo dopo, dai. Quelli che c'è la parte mia, la sua sta acceso qua, ci sentiamo dopo. E vado a mangiare, capo. E io ci avrei buon carico. Buon carica. Ciao Sabine, buona carica, ci sentiamo dopo, dai, vai del papà. Ciao Sabine, buona carica, dai. Riprendo io. Il doppio non diceva, Giuseppe, da quanto lo vuoi? Pierpa, da quanto si può prendere? Se ci devi alimentare solo quello, almeno 10 ampere, però 10 ampere puri, non che sia 7 che va a 10, no, 10 ampere. Perché ne avevo da 7, però? No, vabbè. Quanto assorbe quello? 7 ampere già, ma non c'è spunto. Lo sai benissimo anche tu che deve avere un po' di spunto. che l'ho preso, quello da 50 e non me ne sono pentito. Va benissimo, ma che manda laterale, Russo. Ma te ne fai quello da 30 l'aglio? Ma lo sto utilizzando quello da 30. E l'accapparato come lo rivendo? Tu quello da 50, io rimetti 10 apparati. Vabbè, vuol dire che c'è anche altro da alimentare. Oh no, quelli lì non li tocco, quei due lì non li tocco. Quelli restano lì. Io anch'io la sette, ma è da sette con gli strumenti, non fa. Già ho un po' di spunto, già la spunto fino a 10, ma non fa, capito, solo che vuole 7G. Mentre invece qua è 10, è 10 proprio, E capa, vai che papà. Poi non fa più se ci sentiamo domani sera. A proposito, a Bobo non gli devo dare sempre quel cavo lì. Dimmi, sta arrivato il computer, quanto è l'uscita? Molto bene. Quello si dovrebbe andare bene a lui. Non gliela fanno. Ah, che ha pagato. Pazienza. Mannaggia. Comunque se lo vuoi giocare, se lo vuoi provare, te lo do, provalo. Cava. Facciamo un giro di prove, mannaggia, perché ce l'ho qui, ve lo sto guardando, però devo tenere spento. Oh, esteticamente anche, mamma mia. Quello si può vedere provvisoriamente, Giuseppe, no? Non è una cosa lasciare in stazione, dai. Fidati un alimentatore come si deve direttamente, telefono a tecnocomunicazione, te lo ordi. Tutto fatto, Giuseppe. Domani ce l'ho già qui a casa. Gianni, fai fretta, Date il tempo di fare come fa la formica. Qui siamo direttamente noi, ma io. Su che andiamo? Guarda che nuovo ci sono anche da 80 euro, 90 euro, quindi se lo prende 25 ampere a voi. Ehi, c'ho una cosa con te, ma io siccome Giuseppe lo conosco, se avrebbe potuto, lo avrebbe anche ordinato ieri a mezzanotte, ma siccome uno in questo momento si trova sprovvisto, deve provare in un'altra maniera. Cappa di positivo il buon Bela, parole sante le tue, e sì che ne ho fatto di passi grandi, mi, mannaggia. No, come non detto. Non detto piano, purtroppo la vita è così, mi. Cappa, vi siete modulati in due, mi sai. Da Gianni. No. Ma che? No, io non sono una moto alta. Stavo uscendo, mi sentite? Mannaggia. Chi era? Luca era? Capo, non stavo uscendo, non stavo qua. Ah, no, adesso stai uscendo. Ma cosa ti parlavo, sono con lo Smither, bu? E come vai? Perché non stavo qua? Ma bisogna che tu devi avere l'alimentatore. Allora, perciò non avete tanto 25 ampere da buia. Cava, adesso te ne andato. Volevo prendere uno bellino, l'ho visto su... Lì dove compra Gianni, adesso vediamo, lo ordino. Bellino. Quale? Ce n'è uno che costa 139, 40 ampere. Io ce l'ho da 50 ampere. Su tecnocomunicazioni, con strumenti tutti. Quanto l'hai pagato? 135. Ma quello io voglio prendere io, Questo è rettangolare. Cappa. Così, io lo voglio prendere io, bellino. Poi 40 già, non 50. E vabbè, 55 e 50 di picco. Vabbè, allora ti viene la sigla, io poi chiamo come la posso mandare. E se metterà adesso la sigla? Ma dimmi com'è. Però se tu un cazzo sta a parlare da sopra, vai! Aspetta! A 20 euro non ce ne sono, vero? Oppure mi mandano solo la spina con 20 euro? Subito ti mandano la presa in massa, con Giuseppe. Thank you.